Buonasera Chiesa. Mo da quanto tempo non dicevo buonasera, è una vita proprio. Che bello essere. Accomodatevi. Beh, per i nostalgici, allora ci siamo la sera. E questo è per quelli che non potevano venire alla mattina. Quindi tutti quelli che siamo qui erano quelli che non potevamo venire la mattina. No, non è così, eh? No, no, va bene. Comunque. Ok, passiamo a quello che il Signore, io credo, ha detto a me, ma dice a tutti quanti noi. Il titolo, il titolo di questo messaggio è molto breve, è no. No, però mo non vi aspettate che pur il messaggio sia così breve, eh? Il titolo va bene, no, imparare a dire no. Vi leggo subito una storiella. È una storiella che Gesù ha raccontato, e proprio mostra questo aspetto. È scritto in Matteo al capitolo 21, il verso 28. Io credo ho mandato, cioè sono andato io in tilt, ma anche a Davide ho mandato il tilt, quando è con la tecnologia e con le cose. Ecco qui. È Gesù che racconta questa storia. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si avvicinò al primo e gli disse: figliolo, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: vado, signore. Ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Quante volte il nostro sì vuol dire no e il nostro no vuol dire sì. È proprio dentro di noi questo tipico atteggiamento. E sapete, il dire sì e il dire no hanno fatto delle indagini, e da queste indagini è venuto fuori che la nostra risposta, almeno quella immediata, quella come si dice, non lo so, proprio quella immediata, ecco che ce l'abbiamo subito pronta, è no. E dipende, nella gran parte dei casi, dal nostro stato interiore, da come noi ci sentiamo, da quello che noi sentiamo interiormente. E quello che è emerso maggiormente quando noi diciamo no è, la prima è il sesto senso. Ognuno di noi ha il sesto senso. Tu incontri una persona che ti chiede qualcosa, ma non è tanto tanto simpatico, allora subito no, qualsiasi è la richiesta. Questo è il sesto senso, quello che noi avvertiamo, diamo come reazione. Poi la timidezza, un altro aspetto, la timidezza è subito no, per il timore, la paura dell'incognita, la paura di quello che viene dopo, allora a prescindere è no. E noi queste cose le viviamo, se non le viviamo tutte insieme. Poi un altro aspetto che è emerso, preso tre, ma è una lista che non finisce mai, è l'individualismo. Dico no se non c'è un tornaconto per me. Allora, concentrato sulla propria persona. Quindi a noi è più facile dire no che dire sì. Eppure noi dobbiamo, ci dicono tante volte, no, noi dobbiamo imparare a dire no alle cose, ai troppi impegni, alle troppe cose, che poi andiamo in stress, poi andiamo tutti questi insegnamenti. Per noi però si è visto che logicamente, come quasi dire naturalmente, il dire no è più pronto che il dire sì, che dire sì. Ma per noi, per ogni figlio di Dio, non dire mai no a una richiesta di aiuto, mai. Logicamente e certamente non vuol dire che noi dobbiamo fare come l'altro vuole e come l'altro desidera. Noi dobbiamo cercare quello che è giusto, quello che è il tipico ragazzi o uomini malandati che cercano l'elemosina in giro. Dice: mi dai un soldo, devo comprare un panino. Tu prova a dire: beh, andiamo a fare il panino. Dice: no, io volevo i soldi. Allora è altro, vedete? Allora è altro. Quindi noi possiamo continuare a fare un elenco, ma noi come credenti dobbiamo imparare a dire sì alla richiesta di aiuto di chiunque. Di chiunque. C'è un'altra storia, un altro racconto. Gesù insegnava tutti gli insegnamenti di Gesù, e anzi i più importanti insegnamenti che ha fatto, l'ha fatto tramite storielle, che forse circolavano e che forse inventava anche lui, questo non lo sappiamo esattamente. E anche questo racconto è in Luca al capitolo 10, e conosciamo molto bene, sono tutte storielle ben conosciute, il buon samaritano. Allora, qui dice Gesù, rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, giunse presso di lui e, vedendolo, ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi due denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Allora, al rimborso. Sì, vedete, qui ci sono anche tre aspetti dentro. Prima, il sacerdote, passa un sacerdote. Ora, il sacerdote, noi, gran parte di noi lo sanno, erano solo i discendenti di Aronne ed erano quelli addetti al culto del Tempio, cioè erano quelli che offrivano i sacrifici ed erano quelli che entravano nel luogo santo e nel luogo santissimo per incontrare il Signore. Quindi erano proprio, diciamo, quelli più a stretto contatto con Dio. Che cosa ha fatto questo sacerdote? Giustamente è passato oltre. È andato dall'altro lato, è veloce. Perché? Perché aveva il servizio nel Tempio. Servire Dio, servire il Signore, è più importante che aiutare il prossimo. Non è tanto quello che Gesù insegna in questo racconto. Non è così. Il Levita, lo stesso, il Levita era della tribù di Levi e erano anche loro addetti come supporto ai sacerdoti a servire nel Tempio. Ha fatto la stessa cosa, ha fatto lo stesso pensiero. Servire il Signore, servire nel Tempio è più importante che dare una mano di aiuto al prossimo. Chi è che è stato veramente di aiuto? È stato il così soprannominato buon samaritano, era un samaritano, come un modugnese, come un qualsiasi altra cosa. E loro erano considerati dagli ebrei credenti di serie B, perché avevano delle particolarità. Però chi è questo samaritano? È stato quello che, diciamo, era proprio l'unico che non aveva tempo per aiutare. Perché? Perché era in viaggio, perché il giorno dopo è partito di nuovo, perché doveva andare probabilmente un affare, probabilmente commercio, qualsiasi altra cosa, ma questo aveva fretta. E invece si è fermato, lo ha curato, lo ha portato con sé nella locanda, gli ha pagato le cure, ogni cosa. E questo era il dire, vi ricordate perché Gesù ha raccontato quella storiella? Perché un fariseo gli aveva chiesto, Signore, qual è il più grande comandamento? E allora il Signore glielo chiese a lui, dice, qual è, che cosa ti chiede la parola di Dio di fare? E lui dice, ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù poi gli chiede, no, e poi questo fariseo disse a Gesù, quando Gesù gli disse, ecco, fai questo e sarai salvato. E quello per giustificare, disse, chi è il mio prossimo? Il samaritano ha visto il suo prossimo, il sacerdote e il levita non ha visto il suo prossimo. Quindi è più importante aiutare l'altro, dare una mano all'altro, che può essere con la preghiera, che può essere in qualsiasi altra maniera. Forse non lo sai nemmeno come aiutare l'altro, allora prega. Forse non hai la risposta e non hai i mezzi per aiutare l'altro, però se ti è stato fatto richiesta, entra subito in preghiera e il Signore apre le porte in quella direzione. Allora, da qui vediamo che hanno detto tutti no, uno solo ha detto sì. E questo ha a che fare proprio con la nostra vita quotidiana. Noi le viviamo in ogni situazione e per ogni cosa della nostra vita viviamo questi aspetti, che ci scontriamo ogni giorno con attività con attività simili. Però adesso io credo che è più importante per noi poter vedere dalla prospettiva di Gesù a che cosa dire no e perché dire no. E questo non è un racconto che Gesù ha fatto. Questo che stiamo per leggere è vita reale e vita pratica del Signore Gesù, che lui ha vissuto sulla sua pelle. Lo leggiamo, è in Matteo al capitolo 4, anche un altro passo straconosciuto, sono passi che noi leggiamo abitualmente. Allora Gesù, questa è la tentazione di Gesù, allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Mi pare, no? E il tentatore, avvicinatosi, gli disse, se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E ancora? Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli e a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo, il diavolo, è di coccio. Lo portò con sé sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servirono. Anche in questa storia noi vediamo proprio tre aspetti della vita che Gesù ha vissuto. Il primo riguarda il bisogno. Il bisogno, vedete, rileggiamo. Quello è Candi. E lì ha digiunato 21 giorni. Era uno che faceva regolarmente i digiuni. Era la sua forma di fare politica, di ribellarsi alla dominazione inglese in India. Va bene, faceva digiuni. Qui l'ha fatta da 21 giorni. Si vede l'aspetto, no? 40 giorni è il doppio. Quindi riflettete sulle condizioni di Gesù in quel momento. Era in un reale bisogno e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, questo era per togliere il dubbio, perché qualcuno dice: va bene, ha digiunato come i musulmani. Digiunano il giorno e la sera s'abbuffano. No, qui era 40 giorni e 40 notti, ma anche quello è buono, Noi non lo anzi, noi dovremmo imitare anche questo, non lo ridicolizziamo, però era solo per accentuare quello che Gesù ha fatto. Alla fine ebbe fame e il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Nel bisogno. La fame era un bisogno reale di Gesù, era proprio dopo 40 giorni, io credo, che viene la fame. Però sappi questo, dobbiamo sapere questo, devo sapere questo, che il bisogno non giustifica un comportamento ribelle e un comportamento non buono. Non perché sei in un estremo bisogno, tu sei giustificato dal fare tutto quello che pensi sia buono e sia giusto, assolutamente. Il bisogno non dà il diritto di accusare Dio, di sfidare Dio e di dire: perché a me? No, perché a me non dà nessun diritto, non è perché ci troviamo, ti trovi, è probabile che stai vivendo anche qualche bisogno, non è perché ti trovi in un bisogno grande o impellente che tu sei giustificato e hai diritto, assolutamente, io non ho nessun diritto e non sono giustificato, ma viene anche da dire Ma come? Ha sfamato migliaia di persone con una preghiera di pochi secondi. E che vuoi che siano due pietre trasformate in pane? Gesù ha detto no. Gesù ha detto no. Perché? Perché il bisogno, e lo abbiamo, si legge qui, è la porta della tentazione. Nel bisogno noi subiamo le tentazioni più forti e siamo più facili a cadere perché giustifichiamo il momento, perché ci arrabbiamo contro Dio e ci allontaniamo da Lui. Il bisogno non dà diritto. Gesù ha detto no, perché il bisogno è anche, vedi, quante volte, fratelli e sorelle, quante volte basta una piccola bugia per risparmiare soldi? No, nemmeno una verità non detta e ci fa risparmiare soldi. Quante volte, prendo esempi stupidi, quante volte in un incidente d'auto basta dire il diverso per essere ripagato di tutto? È molto, molto semplice. È molto semplice. Gesù ha detto no. Non è giustificabile il bisogno. Ma tutto a me capita, mo l'incidente, mo ho pagato quello, mo ho fatto quello, mo quell'altro, adesso anche questo incidente. E allora, no, non c'è diritto e non c'è giustifica. In Ebrei, al capitolo 13, Paolo dice: il vostro comportamento, il nostro comportamento, non sia dominato dall'amore per il denaro, ma siate contenti di quello che avete, perché il Signore ha promesso: io sono con voi in ogni situazione. Non è incredibile questo? Non è il bisogno che ci giustifica, non è il bisogno che ci dà diritto a certi e a determinati comportamenti. Noi dobbiamo imparare a dire no al compromesso, perché questo è compromesso. Noi dobbiamo dire no al compromesso. Ci costerà, certo che costa. Costa molte volte perdere la faccia, costa molte volte soldi, costa molte volte... Ma questo è il figlio di Dio. Questo è il credente, colui che si chiama cristiano. Non perché noi seguiamo una religione. Se segui una religione, convertiti. Gesù rispose, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Domenica scorsa abbiamo ascoltato che attivare la fede, stimolare la fede, muove ogni cosa. Muove ogni cosa, confidare in Dio, nelle situazioni più disperate, nelle situazioni più difficili, nel bisogno più grande. Dopo 40 giorni di digiuno. L'altro punto che Gesù ha vissuto è che è la tentazione del diavolo. Se segui l'identità, e quante volte avviene questo dentro di noi, se segui, allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. È vero, è scritto. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Il diavolo lo portò sul pinnacolo del Tempio. Ora, il pinnacolo deriva da pinna, la pinna a punta, cioè ogni antico palazzo finiva con una punta, quindi l'ha messo sulla punta. Io ho fatto la foto del nostro grattacielo. Chi è che abita nel nostro grattacielo? Vediamo le mani. Sì, vedete? 10 piani. Noi lo chiamiamo perché è il palazzo più alto di Modugno. Ora, il tempio era alto 15 piani, quindi devi aggiungere altri 5 piani a questo. Era 44,45 metri, cioè l'altezza di 15 piani a 3 metri ciascuno. 15 piani, lo ha portato. Se voi andate sul palazzo qui, sul grattacielo che noi chiamiamo, e vai sopra, hai veramente la visione di tutto Modugno. A destra, chi ci abita lo sa, boh, va bene, non se abiti al primo piano, ma agli ultimi piani certamente hai la visione di ogni cosa. Il diavolo lo ha portato nella città santa, sul tempio, e gli ha fatto vedere tutto quello e gli ha detto: se tu sei. Ora, cadere dal 15° piano, non potremmo dire nemmeno gli angeli riescono a sostenerti, va bene? Cadere dal 15° piano vuol dire proprio sfracellarsi, e qui è la sfida che il diavolo fa a ognuno di noi. Se sei, e sai quanto senti nel tuo cuore, se sei il figlio di Dio, se sei veramente, se sei, lo sentiamo quando noi ci confrontiamo con gli altri. E lì viene: perché lui sì e io no? Perché lui sì e io no? Il confronto innesca il meccanismo del dubbio. Quando noi ci confrontiamo con gli altri, incominciamo a dubitare: perché lui riceve e io non ricevo? Perché il Signore all'altro risponde e a me non risponde mai? Hai annullato tutte le volte che il Signore ha risposto alle tue preghiere, anche alle più stupide che hai fatto, che ho fatto. E lui risponde. E il dubbio inevitabilmente porta le sue conseguenze. E le conseguenze del dubbio sono incertezza, timidezza, senso di fallimento. Non lo so, possiamo aggiungere quello che vogliamo. Negativismo. Il no negativo già inizia. Viene tutto questo, nasce perché un piccolo dubbio si è insinuato in noi. E quel dubbio nasce. E quel dubbio nasce perché io mi confronto con l'altro. Gesù non ha fatto nessun confronto, anzi direbbe a noi: apri gli occhi, vedi quello che hai. Hai a fianco una moglie stupenda, una mamma stupenda, è vero? Oh, ha risposto chi non ce l'ha. Impariamo a vedere quello che abbiamo, Anzi, fai una cosa, fai una lista di tutte le cose che hai e poi dici a te stesso: che cosa aggiungerebbe a questa lista il ricevere ancora quello che io sto chiedendo. Vedete, le propagande che noi vediamo alla televisione, che cosa ti avvolgono, ti prendono, vuoi sapere come va a finire, perché tu non capisci di che cosa si parla. Parlano di felicità, di vita piena, e poi alla fine è un sapone, è un profumo. E dici, ma vedi, tutto questo è per qualcosa, ed è questo. Che cosa aggiungerebbe quel sapone a tutto quello che hai? Questo è quello con cui veramente noi dobbiamo non confrontarci, ma fare verifica. Noi dobbiamo fare verifica. La risposta di Gesù era non tentare il Signore Dio tuo. Non tentare. Ora, l'ultimo aspetto. Sei paziente, lo so con me, sei paziente. È l'idolatria. Ora è importante che noi vediamo queste cose, perché poi abbiamo la cena del Signore. E noi possiamo prendere posizione. E la cena del Signore non è tanto prendere un pezzo di pane e prendere un sorso di vino e ricordare che Gesù è morto ed è risorto. La cena del Signore è ogni volta prendere una decisione e dice affinché Egli venga. E prendere decisioni. L'idolatria. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Ora, l'ha portato su un monte altissimo. In Israele il monte più alto è il monte Hermon, che è vedete, e si trova al nord, proprio al nord, dove c'è il confine con il Libano, con la Giordania e con la Siria. Quindi si vedeva tanto. Lì è il monte Hermon ed è circa 3.000 metri, manca qualcosa a 3.000 metri, molto alto. Ma dico io al diavolo, ma sei proprio scemo, non lo so se si può dire, ma va bene. Il fatto è che non è scemo, il fatto è che non lo è. Cioè portare al monte altissimo, e là ci sono sempre le nuvole. Non vedi mai quello che c'è a valle. Vale la pena, ti dà l'illusione o la sensazione di vedere oltre e di immaginare tutto quanto tu puoi possedere e puoi avere. Da una forte illusione di quello che noi possiamo possedere. E di nuovo io devo dire, guarda quello che hai, guarda quello che hai. Impariamo, fratelli e sorelle, a guardare le ricchezze che abbiamo e ringraziamo continuamente il Signore delle ricchezze che abbiamo. L'esempio forse più tipico è quello della donna di fronte a un armadio, perché nell'armadio quattro stagioni l'uomo ha un'anta, la donna ne ha almeno, non lo so, vabbè, tutti il resto. Li apre tutti perché deve uscire, no? Dice, e che devo mettere? Non ho niente. È incredibile, logicamente noi comprendiamo che cosa vuol dire non ho niente, ma molte volte è questo l'atteggiamento del nostro cuore nel non vedere quello che abbiamo. Idolatria, non dobbiamo pensare che è semplicemente adorare le statue, gli altri dei, quello che sempre forse abbiamo sentito. Ma idolatria è tutto ciò che prende il primo posto nel tuo cuore. Quella è idolatria. Che cosa prende il primo posto nel tuo cuore? Che ti ossessiona nei pensieri, nei sentimenti, nei modi di agire, in tutto quello che fai. Quella è idolatria, perché sei concentrato, stai adorando quella cosa. Metti davanti il piano di Dio davanti a te. Qual è il piano di Dio con la tua vita? Dici, ma non lo so. Non credo, tra parentesi, però se non lo sai, almeno 3 volte al giorno, diciamo mattina, pomeriggio e sera, va bene, rivolgiti a Dio e di: qual è il piano che tu hai con me? Ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, fino a quando non lo vedrai. Fino a quando non lo vedrai. Perché noi abbiamo come un velo davanti a noi. Vediamo quello che vogliamo vedere, ma non vediamo quello che abbiamo veramente. E pensiamo che il di più o quella determinata cosa apporterà un grande beneficio alla nostra vita, e poi non è così. Sapete, c'è una storiella, e questa è inventata da qualche pastore, c'è una storiella che dice: un uomo era in una imbarcazione grande e questa imbarcazione, come un traghetto, affondò e tutti lì galleggiavano. Allora lui si rivolse a Dio, era un credente, e disse: Signore, Signore, veramente aiutami in questo momento di così grande distretto. Sto per morire. E poi sentì proprio interiormente: ti aiuterò. Che cosa successe? Quasi subito dopo arrivò una barchetta e disse: vieni, sali sopra. E quello rispose: no, io aspetto uno più grande, più importante. Dopodiché arrivò un piccolo traghetto, già più grande, e quelli gli volevano buttare anche il salvagente, a dire: vieni sopra. No, dice, no, io aspetto l'aiuto più grande. Poi ne arrivò ancora un terzo, più grande ancora, e la sua risposta fu la stessa: no, io aspetto l'aiuto che mi deve venire dall'alto. Insomma, in poche parole, alla fine non ce la fece e morì annegato. Andò davanti al Signore e disse al Signore: permetti, però una rimostranza la devo fare. Com'è? Ti ho chiesto aiuto, mi hai detto che mi aiutavi e non mi hai aiutato. Ti ho mandato 3 barche e non hai preso nemmeno uno. Questo è il nostro atteggiamento. Il più delle volte vogliamo la risposta che a noi fa comodo, che per noi è buona per quella situazione, e non cercare la soluzione che Dio dà. Se solo mi adori, dice a Gesù, avrai tutto questo. E la gioia, la soddisfazione, la pienezza non è a che fare con ricevere determinate cose, ha a che fare con la vita profonda e in ogni situazione che tu vivi con il Signore e confidi in Lui. Quello ti dà una gioia incredibile, anche se è poco. Ora vorrei io terminare questo racconto vita vissuta di Gesù che vale per noi, con una piccola carrellata di eroi del no. Il primo è Giuseppe. Giuseppe disse no al sesso facile. Non gli costava niente, nessuno sarebbe venuto a saperlo. Ma lui sapeva che Dio l'avrebbe saputo e ha detto no, e ha patito tutto quello che ha patito. Conosciamo la storia, il carcere e poi quello e tutto quell'altro. L'altro è Stefano. Stefano poteva svolgere il suo diaconato di servire, veniva riverito, veniva veramente lodato, veniva chiamato, tutto. No, doveva ubbidire alla sua chiamata, annunziare Cristo, e questo gli è costato la vita. Paolo e Sila, la stessa cosa. Loro bastava che stavano zitti e non andavano a finire in carcere e patire quello che hanno patito. Però il mio eroe preferito è Pietro, perché lui ha detto no a essere identificato come uno che segue Gesù, ma subito dopo ha detto no, io spezzo qui questa menzogna, e pianse amaramente, e da allora in poi Pietro incominciò a predicare non temendo niente e nessuno. Noi dobbiamo imparare a dire no come Gesù ha detto no a tutte queste cose. Ora che abbiamo la cena del Signore, noi abbiamo l'opportunità di riflettere su quello che abbiamo ascoltato della storia di Gesù e prendere decisione. Ognuno di noi starà certamente vivendo un aspetto che abbiamo nominato, che riguarda il bisogno, che riguarda l'identità, che riguarda, qual era il terzo? L'idolatria, ecco, sì, mi era l'idolatria, grazie, vedi. Mo lo dico, era per vedere se eravate attenti, ma non è così, va bene. Però è vero, riflettiamo su queste cose. E quando andiamo per partecipare alla cena del Signore, io chiedo non lo fare così automaticamente, prendendo il pezzo di pane, prendendo il sorso di vino per ricordare semplicemente la morte di Gesù. Ricorda che Gesù è morto per dire no a tutte queste cose e chiede da noi di dire no a queste cose per essere la sua testimonianza vivente in tutto quello che siamo, facciamo e dovunque andiamo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, ringraziare il Signore. Padre, affidiamo a te ognuno di noi, perché come me, ognuno di noi sta vivendo di queste situazioni, l'una o l'altra, e noi vogliamo servire te con tutto noi stessi. E anche quando il diavolo si avvicina con le sue mille macchinazioni, noi vogliamo dire no nella forza tua. Signore, benediciamo ognuno di noi questa sera, mentre partecipiamo al ricordare quello che tu hai fatto per la nostra vita, ma al ricordare anche quello che noi abbiamo da fare. Signore, noi benediciamo il pane e il vino affinché questo possa essere il segno di quello che chiedi a noi e della tua volontà per la nostra vita. Rispondi a ogni domanda, oh Signore, risponda a ogni richiesta questa sera che ti viene rivolta verso la propria persona. Signore, intervieni, Spirito Santo, opera al di là di quello che noi possiamo fare, nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Possiamo liberamente partecipare alla cena del Signore, ma ribadisco, è importante che lo facciamo prendendo decisioni e non prendendo semplicemente un pezzo di pane e un sorso di vino. Amen.